1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, la mia voce ancora c'è, ringrazio tutti quelli che mi danno solidarietà, chi mi dice bevi la grappa, chi Mirto Sardo, chi la propoli. Saluto anche al 349-238-6666, ci ha mandato un messaggio Mauro, ci ascolta da Hong Kong, fa il tennis coach, evviva! Che bella vita, da Hong Kong il tennis coach. Grazie a Mauro Fieni che ci scrive. Così come saluto tutti coloro che ci seguono da tutte le città italiane o mondiali. E continuate a scriverci al 349-238-6666. Io vi saluterò se ce la faccio a vedere anche i messaggi. Intanto devo vedere i giornali, andiamo a sfogliarli. È venerdì 27 novembre, la 134esima settimana decisiva per l'abolizione delle province si chiude con grande slancio, la 135esima forse sarà meglio. Vabbè. Vedremo, vedremo. Intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sul cambio al vertice alle ferrovie, si dimette il consiglio, il nuovo amministratore delegato Mazzoncini arriverà in tempi brevi, c'è anche un'intervista al ministro alle infrastrutture del Rio. E poi la coalizione internazionale che si allarga contro l'ISIS. Corriere della Sera, Putin online, colpiremo insieme. Per Repubblica, Putin alleanza anti-ISIS a guida USA. Italia controlli su chat e PlayStation. Per La Stampa, Hollande e Putin, patto contro l'ISIS. Il giornale, la Germania va in guerra. Il Messaggero, si allarga la coalizione anti-ISIS. E poi i titoli concentrati sull'Italia. L'Unità titola così in prima pagina: non mettiamo l'elmetto. Mentre Il Giorno, Siria, si sfila solo Renzi. Libero invece, addirittura molto sarcastico, con questo soprannome che secondo alcuni indica Renzi quando era a scuola, il bomba non bombarda. Questo è il titolo di Libero. Mentre Il Fatto Quotidiano, dicevano basta intercettazioni, ora intercettano le PlayStation. Attenzione, c'è anche il manifesto, lo devo leggere perché visto che con Oscar Giannino poi parleremo anche di questo nel nostro Attenti a noi due. Ecco che il manifesto mette la foto di Hollande e Putin e il titolo è Attenti a quei due! Ebbene sì, quasi un lancio, o meglio una rivisitazione del celebre film. Allora, mentre si discute di tutto questo e discuteremo di tutto questo, in Italia si fa la polemica sulle lauree. Oh. Il ministro Poletti che ha detto una cosa, io lo ribadisco, l'ho detto anche alle 7:30, secondo me totalmente banale, ovvia, scontata. Nei prossimi giorni avremo ospite Alberto Forchielli alle 6:30, è lui che ha scritto il libro su come trovare lavoro all'estero, che racconta l'importanza di come i giovani dovrebbero laurearsi in fretta, fare soprattutto scelte con materie scientifiche in primo piano nei loro percorsi di laurea. Ebbene, qui facciamo la polemica, per la verità, sui giornali, fortunatamente tenuta un po' in basso e soprattutto esplosa sui social network, sulle frasi del ministro al lavoro Poletti, che ha detto una cosa ovvia, banale, scontata, cioè invece di laurearsi a 28 anni, 30 anni cercando la lode, forse è meglio laurearsi prima, 4, 5 anni prima, 3 anni prima, con un voto più basso ed entrare subito e cercare di entrare nel mondo del lavoro. Che poi non ci sia lavoro in Italia, che poi questa è un'altra questione sulla quale si può aprire un secondo dibattito, ma mi sembra una roba talmente scontata. Però la provocazione di Poletti su Repubblica, ragazzi, laureatevi presto, il 110 lode a 28 anni non vale un fico. Insomma, Cristiana Salvagni racconta su Repubblica, ha avuto un po' l'effetto del più celebre Choosy di Elsa Fornero, no? Vi ricordate? I giovani italiani sono un po' schizzinosi, Choosy, perché vogliono scegliere il lavoro perfetto su misura e non si sporcano facendo dei lavori anche magari non subito al primo lavoro, il lavoro perfetto. Vabbè, la polemica la mettiamo via? Non arriverà a domani mattina sui giornali? Ce lo auguriamo. Intanto, a proposito di scuola, vi segnalo due cose invece interessanti di cronaca. La prima, sul Libero. Pagina 16. Sel mette in croce la preside antiscioperi inventati. Allora, la vicenda riguarda una scuola, un liceo, Salvemini a Bari, dove il 17 novembre alcuni studenti dei primi due anni scioperano in occasione della cosiddetta giornata internazionale degli studenti, cioè la commemorazione della sanguinosa repressione di molti studenti di Praga all'epoca del protettorato nazista in Cecoslovacchia. Ebbene, cosa fa la preside Tina Gismundo del Salvemini di Bari? Tina Gismundo manda un SMS a tutti i genitori avvisando: guardate che i vostri figli non sono a scuola ed è un'assenza ingiustificata. Apriti cielo! Tutto finisce in un'interrogazione parlamentare di Sella che accusa la preside di guerra alla libertà di espressione e di pensiero degli studenti, di comportamento in netto contrasto con la funzione sociale e costituzionale della scuola pubblica, accusa la preside di episodio di intolleranza. E dunque questo dirigente scolastico, che ha avvisato i genitori della loro assenza ingiustificata, finisce in Parlamento. L'altra notizia di cronaca, ci siamo anche quest'anno. Speravo di scamparla, ma giustamente ci avviciniamo al Natale e quindi eccola lì. Il preside che a Rozzano, in provincia di Milano, cancella la festa di Natale perché la scuola rimuove anche i crocifissi su richiesta di alcuni genitori che avevano detto: quest'anno, per favore, può inserire nella festa di Natale anche qualche canto religioso, tu scendi dalle stelle, adeste fideles, stille nacht. No, dice questo dirigente di una elementare di Rozzano. In nome della laicità della scuola pubblica si possono fare le festicciole natalizie, ma niente di religioso. Eh no, certo, il Natale non è una festa religiosa. Non lo è. Chi mai può pensare che il Natale sia una festa religiosa? E quindi il preside cancella la festa di Natale. Lo racconta Il Giorno a pagina 22. Le proteste dei genitori, anche quest'anno questa vicenda sarà politicamente cavalcata. E via la polemica natalizia quest'anno parte da Rozzano, ma seguiranno, state tranquilli, nei prossimi giorni altre scuole. Vi voglio invece raccontare ciò che La Stampa mette a pagina 17 con Paolo Russo, che riguarda l'Agenzia Italiana del Farmaco. È una vicenda che ha solo La Stampa ed è molto interessante a mio modo di vedere. Sospeso il presidente dell'AIFA. Troppi conflitti di interesse. È una vicenda, è un articolo che riguarda la figura del professor Sergio Pecorelli, presidente dell'AIFA, nonché rettore dell'Università di Brescia, e racconta però La Stampa anche varie poltrone in diverse altre consigli di amministrazione. È presente anche in varie società scientifiche ed ecco allora che sono state giudicate un po' troppe incompatibilità, tanto che il direttore generale della stessa Agenzia del Farmaco, Luca Pani, ha chiesto la sospensione, ha sospeso il presidente e ha messo tutto in mano al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Come dire, prenda una decisione, ministro. Che cosa racconta La Stampa riguardo a Sergio Pecorelli? Primo conflitto di interessi. Fino a 3 giorni fa il professor Pecorelli risultava essere advisor di un fondo di investimenti, il Principia SRG, che finanzia industrie del settore sanitario e farmaceutiche. Come dire, ti consiglio su quale industria del farmaco puntare e intanto con l'altra casacca di presidente dell'AIFA decido le sorti sui prezzi e ingresso nel paradiso dei medicinali rimborsabili. Seconda incompatibilità, il presidente AIFA è a capo della Healthy Foundation, dove più di un'industria farmaceutica avrebbe finanziato con 80.000 euro una pubblicazione sui vaccini dello stesso professore, che nel sito della fondazione appare accanto all'allenatore della Juve, Max Allegri. Terzo conflitto di interessi, la presidenza e una poltrona nel board scientifico della fondazione Lorenzini. In questa mission della fondazione c'è il compito di effettuare, promuovere e divulgare studi e ricerche del campo farmacologico. Insomma, tutti questi presunti conflitti di interesse hanno portato alla sospensione del presidente e ora alla decisione che spetterà al ministro Lorenzin. Ma siamo all'articolo che mi fa più sare della giornata. È l'articolo di Stefano Zurlo sul Giornale. È una vicenda di cronaca nera che riguarda l'uccisione di un macellaio ucciso a bottigliate dai ladri nel corso di una rapina. Sono arrivate le condanne e le condanne, scrive Stefano Zurlo sul Giornale, sono condanne davvero ridicole per questi omicidi tra i 13 e i 10 anni. Il mondo capovolto, macellaio ucciso dai ladri a bottigliate, i giudici dicono non volevano ammazzarlo. E allora la vedova Federica Raccagni di questo macellaio ora è furiosa, dice sarebbe stato meglio avere un'arma in casa perché ci saremmo difesi, meglio un cattivo processo che un bel funerale. E le condanne sono arrivate tra i 13 e i 10 anni e 10 mesi, non di più, e soprattutto l'accusa omicidio preterintenzionale, non volevano uccidere i criminali, in un certo senso la morte dell'uomo fu un incidente, sì è vero, gli sono entrati in casa, sì è vero, l'hanno preso a bottigliate, sì è vero, volevano fare una rapina, ma insomma, non volevano uccidere. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, etichetta Rossoneta, il conduttore che crea un'atmosfera. E va bene, cari ascoltatori, allora devo fare dei saluti perché ci scrive un ascoltatore a dire saluta anche quelli dai paesi, dai paesini che ti ascoltano. Certo, eccoci qua allora, Matteo e Cristina da San Mauro Torinese, un abbraccio a voi, Vito da Alberobello, Roberto da Grumello che mi aspetta per Grumellese Prosesto. Però saluto anche Giovanni da Sydney, ci manda una foto straordinaria, ci sta ascoltando da lì, arrivi dall'altra parte del mondo il nostro saluto, Flaviano dalla tangenziale Ovest, Gabriele da Pordenone, Massimo dal Libano, ringrazio anche chi mi suggerisce per la voce di cantare l'inno della Juve che così mi passa, così mi ricoverano, o chi dice che è brutto stare a meno 10 dall'Inter e quindi al freddo ci viene il mal di gola, va bene, ringrazio, ma soprattutto, cari ascoltatori, Giovanni da Messina mi propone di mettere un bicchiere con l'aceto con dentro del ghiaccio tritato e fare gargarismi. Sai Gianfranco che il mal di gola non è una brutta cosa, ci si può convivere con il mal di gola. Allora, dicevamo dell'ISIS, si rafforza il fronte anti-ISIS, Hollande e Putin con la stretta di mano stringono anche un'alleanza, Marco Mussanè racconta tutti i dettagli a pagina 5 del Sole 24 Ore, la grande alleanza tra Francia e Russia, si rafforza l'asse in chiave anti-ISIS. Hollande e Putin hanno raggiunto questo accordo su tre punti essenziali, ci sarà un aumento degli scambi di informazioni militari sulle operazioni tra gli stati maggiori delle forze armate dei due paesi, i bombardamenti contro Daesh o ISIS verranno intensificati e poi i gruppi che in Siria combattono lo Stato Islamico non verranno più colpiti. Questi sono i tre punti sui quali Hollande e Putin hanno firmato una intesa. E anche la Germania che era stata silente con Angela Merkel per qualche giorno, poi da ieri ha avuto un'improvvisa accelerazione, a cancelliera Angela Merkel manda 650 soldati in Mali, manda anche aerei in aiuto. Insomma, la Germania va in guerra, titola il Giornale. Ora manchiamo solo noi. Ecco, tutti fanno notare che l'Italia, effettivamente, con Renzi, che ieri è andato di buon mattino a incontrare Hollande all'Eliseo, l'Italia invece si tiene in una posizione così un po' defilata. Sapete che Renzi dice non vogliamo creare in Siria una nuova Libia, sapete che Renzi non vuole utilizzare la parola guerra, dice non ci sono solo le armi, c'è anche la cultura, il progetto culturale. Insomma, ovviamente qualche giornale, i giornali come Il Giornale, Libero, ma anche Il Fatto Quotidiano lo critica così, armiamoci e partite, no? Grande classico italiano. E ci si chiede che cosa si siano detti Renzi e Hollande, non si capisce bene, al di là ovviamente delle dichiarazioni che sono uscite ufficiali, cioè la vicinanza, siamo due paesi fratelli che ha detto Renzi, in realtà secondo alcuni retroscena, Hollande avrebbe un po' accusato Renzi a dire non è sufficiente quello che state facendo per combattere dal punto di vista militare l'ISIS. Invece, c'è sul fronte interno una mossa. La mossa l'ha fatta il ministro della giustizia Andrea Orlando. Intercettare le chat e le PlayStation. Ora non sorridete, la questione delle PlayStation peraltro è molto seria, visto che si è scoperto che uno degli attentatori di Parigi, probabilmente per bypassare tutti i controlli, chattava anche sulla PlayStation. Io non ce l'ho, quindi non so come si fa, ma insomma voi lo saprete, i vostri figli meglio di voi. Chattare con la PlayStation, quindi inviare messaggi per mantenere i contatti con la Siria. E allora guarda sigilli Orlando, scrive Liana Milella su Repubblica, di certo uno che non può essere accusato di essere un estremista, chiede dopo Parigi più intercettazioni. Dopo il vertice al ministero con i magistrati, dichiara in conferenza stampa: oggi gli strumenti di comunicazione sono molti, non c'è solo il telefono, quindi dobbiamo potenziare le capacità di intercettare informazioni da qualunque tipo di strumento della rete, dalla PlayStation ai programmi per scaricare musica, fino alle chat dove può avvenire lo scambio. C'è ovviamente in contraltare subito un'intervista al presidente dell'Authority della Privacy, Antonello Soro, che dice: si rispetti la Costituzione, anche se le minacce ci sono, non bisogna utilizzare misure estreme. Comunque, il dato di fatto che la notizia esce un po' su tutti i giornali, Roma annuncia controlli anche su chat e PlayStation. Questo per quel che riguarda la reazione. Per il fatto quotidiano dicevano meno intercettazioni, ora intercettano anche chat e PlayStation. Vi segnalo poi le due pagine di Repubblica, ma anche una del Messaggero, sul flop, ormai si può dire, dei servizi segreti per quello che è successo a Parigi. Il comando di Parigi in una lista di sospetti, ma il Belgio la ignorò. Questo è il titolo già emblematico di due pagine di Repubblica, pagina 6 e 7. Fu mandato un elenco di 85 nomi, tra l'altro Repubblica mette tutte le foto, i nomi, le facce di questi terroristi. Un elenco di 85 nomi inviato a giugno al borgomastro di Molenbeek, cioè il comune fuori Bruxelles. C'erano tra questi nomi anche quelli di Abdeslam Salah, di Abaoud, che poi è finito ucciso nel raid a Saint-Denis, di Mohamed Abrini, che pare il nuovo ricercatissimo che sarebbe in fuga con Salah Abdeslam. Insomma, tutti questi nomi, oltre ad altri nomi, c'erano. Ma il Belgio ignorò questa lista. Capite che ci sono questi flop di intelligence, così come c'è la psicosi. Sono entrati alla moschea di Bruxelles, hanno sequestrato del materiale. Attenzione, l'attacco all'antrace, l'hanno analizzato, era farina, c'era della farina dentro la moschea di Bruxelles. Da una parte la psicosi e dall'altra parte, quando invece c'erano gli allarmi, i servizi segreti li hanno totalmente ignorati. Anche il Messaggero, dicevo, flop servizi, Salah già schedato a giugno, tra l'altro. Il Corriere della Sera, pagina 8, da Bruxelles con Marco Imarisio, fa proprio un punto della situazione a dire: ma dove diavolo è finito questo Salah? Sulle tracce del mancato kamikaze che potrebbe farsi esplodere ora, ma intanto è sparito, è svanito nel nulla. Dove è finito Abdeslam Salah? Davvero nessuno lo sa. Viene segnalato in Olanda, viene segnalato in Germania, viene segnalato in Spagna, forse è ancora a Molenbeek, nelle vicinanze dunque di Bruxelles. Vi segnalo anche l'intervista che Marco Grasso sul Secolo XIX fa a Diana Ramona Medan. E voi direte: chi diavolo è? Beh, è una donna che fino a poco fa viveva in Italia. È considerata però una indesiderabile simpatizzante della Jihad, originaria della Romania, vive a Bolzano da 13 anni. Ma questa signora che si è convertita all'Islam, dopo aver conosciuto il marito tunisino, è stata poi cacciata dall'Italia. Ora però vive a due passi dall'Italia, a Innsbruck, in Austria, e lì a Innsbruck, in Austria, è assolutamente tollerata. Non giustifico le stragi di Parigi, ma le capisco. È un'intervista di Marco Grasso fa affermazioni abbastanza radicali. Per esempio, dopo la strage di Charlie Hebdo, scrisse su Facebook: gli unici fascisti e criminali siete voi occidentali che andate in altri paesi a ammazzare la gente con la scusa della democrazia e della libertà. Da allora è finita sotto le mire del Ministero dell'Interno, è stata appunto espulsa. Ma dice lei ancora: non sopporto il doppio standard, i morti occidentali valgono di più. E la guerra in Siria ha fatto 500.000 morti, ma nessuno interessa questa sofferenza. Sì, ma avrà visto le decapitazioni dei prigionieri, la guerra è guerra. Lì regna la violenza, ma anche le bombe uccidono. Comunque, le vittime di Parigi sono innocenti, hanno danneggiato tutti i musulmani con questo attacco, non giustifico gli autori, ma li capisco. Sono giovani che guardano un mondo devastato dalla guerra, si sentono discriminati perché musulmani e dunque colpiscono. Eccola qui, allontanata dal Ministero dell'Interno, ma vive a due passi da noi a Innsbruck. L'intervista è sul Secolo XIX. Va bene, non è stare a meno 10 dall'Inter che mi ha causato questo terribile abbassamento della voce, ma saluto comunque Mauro Meazza, al quale già faccio come premessa gli auguri per un weekend che si protrarrà fino a lunedì sera, vero Mauro? Grazie, ti ringrazio molto, ricambio gli auguri, saluto naturalmente tutti gli ascoltatori e ti voglio dire che fai bene a parlare di lunedì. Perché, come vedi anche già in una segnalazione sul Sole 24 Ore di oggi, lunedì presenteremo proprio uno speciale dedicato ai muetasi, perché l'anno prossimo sulla prima casa non si pagherà, però quest'anno, il 16 dicembre, si paga, e quindi prepara i tuoi due urini, metti da parte i tuoi due urini che lunedì ti spieghiamo, ti diamo una parte speciale del Sole 24 Ore. Chissà, forse ne verremo a parlare anche alla radio, ma non da te però. Ma non da me, va bene. No, non da te. Forse dalla Rosciani, dalla Carbone. Il lunedì non so se non abbiamo so, poi non... così voglia non di lo vederci. So, vediamo, sicuramente li sentiremo. Senti, sul Sole 24 Ore invece ti segnalo così, visto che ti sei appassionato, che ti sei appassionato a questioni di sanità, allora ti segnalo l'anticipazione che Roberto Turno fa oggi sul rapporto sulla sanità italiana. Verrà presentato oggi, ma abbiamo già dei numeri, i tagli, che dove hanno colpito in questi anni, quanto si è risparmiato, quanto non si è risparmiato. Lo anticipiamo oggi sulle 24 Ore nelle pagine di Imprese e Territori. E poi tra l'altro si parla anche della vicenda dell'AIFA di cui dicevi prima. Inoltre ti voglio segnalare l'intervista che Beda Romano fa a Distelblum, che non è un terzino, no. Non è il prossimo acquisto del non Milan. Farmi ridere, non farmi ridere. Quello non si può mai dire. mi sembra che siamo capaci di tutto. Non ci siamo tanto, non è, voglio dire, avere poi 40 e 50 anni, mi sembra che forse siamo un po' oltre il limite di solito dei calciatori professionisti. Comunque Dieselben parla con Beda Romano e dice che abbiamo esagerato con le richieste di flessibilità noi italiani, quindi questo signore è particolarmente importante perché presiede l'Eurogruppo, cioè il coordinamento dei ministri delle finanze dell'Eurozona, e dice bisognerà che vi decidiate su quanta flessibilità volete e per e a che titolo. Leggi Beda Romano naturalmente. Come sempre, con attenzione scrupolosa e maniacale, sì, leggerai norme e tributi, sì, così ti ricorderai che lunedì, tra l'altro, vedi che questo lunedì torna sempre, il lunedì scade anche il termine per il pagamento del saldo, delle imposte, scusa, del secondo conto delle imposte, e poi come si paga anche con la materia, con la via digitale. E infine, ti volevo anche segnalare che le banche italiane si presentano bene sullo SREP, che tu non sai cos'è naturalmente, si chiama ovvio. Supervisory Review and Evaluation Process, ma la sostanza è che per la vigilanza bancaria unica europea ci sono le anticipazioni che diamo sulle pagine di finanza, le banche italiane si sono ben posizionate, non c'è ancora l'ufficialità, ma lo anticipiamo oggi sul Sole 24 Ore. Mi pare di averti detto parecchie cose, molte altre te ne potrei dire, ma sì, naturalmente il tempo è tiranno, il weekend incombe, io ti faccio tantissimi auguri per domani sera, che tu possa passare un sabato sereno, non sprecare la voce, che poi lunedì ne parliamo con comodo. Ecco, bene, bene. Mi raccomando. Vado, dobbiamo fare il 3-2-1 sì. A favore della... Sì, della perché un ascoltatore prima ha detto aspetta a mandare Meazza che non sono ancora arrivato in tangenziale, mi dà l'idea di essere in ritardo. Però ce l'abbiamo fatta, credo che Max sia arrivato in tangenziale. Benissimo. Facciamo ancora un 3-2-1 per la nostra amica figlia di, non ricordo il nome, ci perdoni, ma di 7 anni che aspetta solo questo. Pronto? 3, 2, 1... Traffico! Alessandro Milan, la chitarra elettrica dell'informazione. Grande, grande. Poi saluto e ringrazio Lorenzo Nespoli, ci fa sapere che oggi 27 novembre di che anno 42 nasceva Jimi Hendrix. Allora devo salutare Paola da Bassano del Grappa, Fabrizio da Lavis ci ha mandato una foto alle pendici a Paganella, straordinaria. Un altro ascoltatore una foto dell'Etna, ci mandate delle foto sensazionali. C'è Irzac da Santerame in Colle, Bari, e poi Giuseppe da Scortichino e un ascoltatore da Somendenna. Ma che mi perculate, ma che è Somendenna? Ah no, ho visto, Somendenna è una frazione di Zogno e Scortichino. Giuseppe, vabbè, insomma, queste sono cose straordinarie, sono cose che capitano, mi verrebbe da dire, parafrasando la più celebre frase. Allora, che vi voglio segnalare in conclusione, vi voglio segnalare dal punto di vista del Papa che continua il viaggio in Africa, c'è un'intervista ad Alex Zanotelli, padre Zanotelli, che è stato tanti anni in Africa, viene intervistato da Avvenire a pagina 7, da Nello Scavo, dice Alex Zanotelli, se c'è un'area che può essere definita continente crocifisso, questa è l'Africa, dove le armi servono a mantenere lo sfruttamento. Basterebbe pensare che in Libia avevamo Gheddafi, un dittatore, ma non c'erano gruppi fondamentalisti. Davvero abbiamo fatto la guerra per liberare il paese dal pugno di un despota? E cos'è la Libia oggi? Un paese pacificato? E noi italiani che abbiamo venduto e continuiamo a vendere armi a non finire, perché non ci interroghiamo? Dopo la sconfitta di Gheddafi, l'intero arsenale è finito nei conflitti saheliani, cioè del Sahel. Così Zanotelli a pagina 7 di Avvenire. E poi che vi segnalo ancora? Beh, a proposito di Papa, arriviamo però alle cose italiane e vi segnalo che c'è un'intervista di Paolo Rodari, vaticanista, a Mariella Enoch, che è la neopresidente della Fondazione Bambin Gesù, che ieri a TV 2000, dice Repubblica, ha detto, per quel che riguarda la casa di Bertone, cioè il cardinal Bertone, pagheremo, cioè chiederemo i danni. Questa è la notizia su Repubblica. È questione di pochi giorni, ma chiederemo quanto impropriamente dato e esigeremo i danni morali. Questo è l'effetto della mia voce, eh? Ce l'ho, sono ancora rantolante, ma arrivo alla fine. E allora eccoci qua. L'ultimo sprazzo è per la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali ed è sulla Stampa, dove viene dedicata una pagina, voglio non farmi perdere la voce del tutto, alla crisi di mezza età, che esiste, esiste, già mi sta venendo, esiste, ma dopo si torna a sorridere, ma esiste, tra i 45 e i 55 anni. C'è la crisi di mezza età. Oh, io la settimana prossima compio 45 anni, me l'hanno fatta apposta. La crisi di mezza età esiste, lo scrive la Stampa! Ma chi se ne frega!